Una buonasera da Max Macchia, Radio Città del Capo, in compagnia di 451 frammenti sonori. Questa sera ci sono io in solitaria, saluto il buon Eliseo Scarpa e, come dire, gli faccio anche l'in bocca al lupo per le varie vicissitudini che lo stanno, insomma, prendendo in questi giorni. Sono le solite, poi siamo sempre, come dire, le solite, siamo dei... come dire, attanagliati dai nostri stessi guai, quindi insomma tendenzialmente anche un po', come dire, autoindulgenti, se non addirittura autocompassionevoli a volte. Vabbè, a parte le ciance, insomma, e ovviamente gli affettuosi saluti che faccio al compagno di viaggi di ormai di quasi 10 anni, Eliseo Scarpa, e chiaramente a un compagno di viaggi che si è unito, insomma, non da tantissimo, però insomma, siccome stiamo parlando, insomma, di trasmissioni quasi dinosauriche, quindi parliamo, insomma, di 4 anni a questa parte, ovvero Lorenzo Albano, che cura il blog, oltre, insomma, avere varie ideine, ideuzze, eccetera. E 451 in compagnia, appunto, di Max Macchia, questa sera rudimenti, rudimenti sonori, rudimenti probabilmente legati al ritmo, alle tecnologie, soprattutto di questo, delle elettroniche che stanno tornando in un certo qual modo a suonare sporche e stanno tornando a suonare anche male. Questo è un dato anche decisamente interessante per quello che può essere la cab culture, il suono dance dei club, che volendo, insomma, se fossilizzato, anche senza volerlo, insomma, indirettamente, involontariamente, ha preso anche un vicolo cieco negli ultimi anni, soprattutto, insomma, con la minimal, ma questo, insomma, è un discorso che facciamo da tempo qua a 451 frammenti sonori. Però ci sono segnali decisamente interessanti, sia, vabbè, da parte di tutto il dubstep, che tra l'altro, insomma, già come matrice, decisamente come matrix, è già decisamente interessante, così facciamo anche una citazione alla Basic Channel. E oltre, insomma, a quello che è un panorama legato al dubstep o post dubstep, sicuramente un incrocio che riguarda anche la serata di questa sera, c'è una nuova forma, appunto, di techno, di house, forse anche diversamente concepite, proprio in termini, appunto, di extragenero, di transgender, andare, appunto, oltre il genere della techno e dell'house, soprattutto, insomma, dentro quelli che sono i cliché di queste musiche, recuperare in questo senso rudimenti di questa sera di 451, quel suono spartano, quel suono decisamente sperimentale, ma anche per il semplice fatto che erano le prime sperimentazioni legate a una ritmicità tecnoide. E così arriveremo, quindi, iniziando la prima parte di 451 con rudimenti storici invece a sonorità vicine a noi degli ultimi mesi, proprio con personaggi, progettualità che si muovono, appunto, dentro questo sì, forse recupero è una parola un po' forte, un po' anche, come dire, che si presta, insomma, così a un concetto che potrebbe essere reazionario. Non lo è affatto in queste musiche, se di retromania si può parlare per tante faccende, per questa se si può parlare in questo caso, insomma, di recupero del passato, è sicuramente in una chiave decisamente interessante, anche per rompere questo quasi blindatura dance che c'è negli ultimi anni, soprattutto legato, insomma, a musiche che si sono decisamente infighettite dentro i club, non hanno più quell'aspetto cattivo che, se vogliamo, insomma, è arrivato fino agli anni 90 con la rave culture, e quindi, insomma, il recupero di queste attitudini, sentiremo, insomma, progettualità nuove, ma iniziando da grandi pionieri di un suono che si stava facendo techno, come non andare a prendere questi signori di Sheffield. grandi maestri come Cabaret Voltaire, che nei primi anni 80, 1982, poi un recupero anche dei primi mesi dell'80 per due pezzi che appunto ci siamo ascoltati da parte di questi geniacci provenienti da Sheffield, con sonorità assolutamente defagranti da quella nascita industrial che appunto in quel di Sheffield per tanti aspetti insomma è stata fondativa per tutta una scuola, non soltanto la Londra, quindi di Throbbing Gristle, ma anche quella appunto la Sheffield di Cabaret Voltaire, come di Clock DVA, come primissime cose di Human League come Future, insomma via dicendo, tra band che si muovevano tra un synth pop assolutamente fuorviante, forse anche perché all'origine insomma non esisteva ancora un pop delle macchine, quindi si inventarono un suono con tanto anche di riferimenti alle avanguardie storiche, Cabaret Voltaire, Cabs, per insomma gli affezionados, chiaramente insomma si rifacevano per tanti aspetti, appunto già il nome dice tutto, proprio agli esperimenti noise Dada, anche in termini di collagismo poi sonoro, che forse è la faccenda che più ci interessa questa sera, nel senso di prendere sia da una parte il collagismo Dada, sia quello baroxiano, grande riferimento di tutte le musiche devianti del secondo dopoguerra, si potrebbe dire, visto che poi di fatto già lui partì con faccende decisamente interessanti in termini musicali, appunto in termini di cattappo, oltre che farlo in campo letterario, e appunto negli anni 80, con la dipartita anche di Watson, che se ne va proprio sul più bello forse per qualcheduno, nel senso che quello che saranno i Cabaret Voltaire soprattutto dall'82 in poi, da Britdiff che abbiamo ascoltato, tra l'altro ancora con Watson in poi, saranno dei Cabaret Voltaire che tramite il cut-up però legato alla dance riusciranno a creare quel rudimento, quella base poi ideativa attraverso anche il loro Western Record, loro etichetta, oltre che i loro studi, avranno modo insomma anche di produrre faccende anche molto legate al video, e se non fosse stato insomma per un'appropriazione anche piuttosto così volgare di MTV, di tanti esperimenti anche di cut-up e di flusso video che potete vedere nelle prime collezioni video, nei primi film sperimentali di Cabaret Voltaire, tra l'altro due o tre anni fa uscì proprio Johnny Yesno in versione lunga, quindi anche con tutte le parti video che nella vecchia videocassetta non esistevano, quindi stiamo parlando insomma di supporti decisamente arcaici, decisamente rudimentali, come d'altronde erano le macchine che utilizzavano Cabaret Voltaire e che riuscirono insomma a rendere assolutamente feconde come pochi altri, e d'altronde crearono anche una forma internazionale di se vogliamo industrial dance, o forse anche di metal dance, citando magari un gruppo che volendo in sottofondo dopo sentiremo, oppure sentiremo anche insomma in maniera compiuta, ovvero SPK con la svolta loro dance, proprio con il pezzo Metal Dance, una deriva anche decisamente interessante che appunto ci porterà fino ai nostri giorni, proprio a questo recupero di una techno assolutamente rude e grezza, se vogliamo, e per questo decisamente interessante. E l'internazionale appunto dei Cabs, questo internazionale dance antagonista, alternativa, definiamolo insomma in varie maniere, visto che poi c'è questa pericolosità data dalla loro dance, dai loro esperimenti dentro una materia che sembrerebbe soltanto commerciale, in realtà non lo è affatto, e questo insomma la dice lunga anche su molta Mutant Disco, Arthur Russell in prima, insomma, che conosciamo decisamente bene qua, 451 frammenti sonori, e anche a chi magari ogni tanto ci ascolta, un internazionale che arrivava anche in Australia con Severetz, pezzo veramente notevole questo qua, come dire, una proto techno piuttosto ipnotica, piuttosto insomma anche volendo trance nel suo aspetto forse più urbano, in questo senso insomma altri magistrali rudimenti provenienti appunto dall'Australia, Severetz. E da quel piccolo impero australiano che è veramente mi sconosciuto, ma di fatto insomma fece uscire anche faccende piuttosto buone, forse non tanto in termini elettronici, soprattutto legati a quello che era la cosiddetta metal dance, se vogliamo chiamarla così, questa sera, anche in onore insomma di SPK, e tra l'altro anche in onore insomma di uno che creò quell'immaginario in termini visivi, avete capito, no? John Carpenter, chiaramente, che con la sua fuga creò il suo escape, creò un vero immaginario post-atomico, filmico, legato a una sorta di goticità assolutamente fantascientifica, talmente insomma spinta da creare un fumettone incredibile con un immaginario lunghissimo che si allungò appunto anche attraverso le musiche sia di Severed Heads per quanto riguarda insomma certi lidi e certi liminari appunto del mondo, ma tanto anche per specificare quanto fosse poi larga, forse più che una scena, un vero e proprio network fatto di tapes che giravano, di cassette che poi per certi versi anche queste sono tornate come rudimenti, e faccende insomma legate a anche prime forme di comunicazione proto internet che legavano tanto la mail art quanto prime forme dell'utilizzo del computer in chiave di rete, facendo insomma piuttosto grosse che per tanti aspetti poi si persero nel corso degli anni 80, come tra l'altro un immaginario forte e assolutamente futuristico come quello di Carpenter che sentiamo insomma in sottofondo dalla colonna sonora celeberrima che citavo prima, appunto Fuga da New York, per chi insomma non aveva capito ancora a quale fuga, a quale escape insomma prima mi riferivo, e successe quindi una così una sorta di ritorno, un boomerang che tornò agli stessi sperimentatori dei primi anni 80, anche in maniera piuttosto insomma inavvertita, queste musiche che volevano sperimentare delle dance assolutamente oblique che portassero insomma in un altrove anche quello che poteva essere il club futuro e futuristico, se non addirittura futurista per molti. E invece insomma ci fu una certa normalizzazione e buona parte insomma della metà degli anni 80 tornò su una dance piuttosto pacificata, commerciale insomma, e per niente pericolosa, se vogliamo insomma ancora parlare di pericolosità per certe forme sperimentali di pop, per tanti versi lo sono e lo sono state, e tutto poi esplose di nuovo con la prima Acid House a Chicago, con la prima techno di Detroit, e con quella traslazione europea, tutta europea, che fecero varie formazioni appunto di quel che succedeva e di quel rudimento che tornava a essere così forte, così basico, quella voglia di suonare storti, potremmo dire, in maniera insomma punk, l'elettronica. 400 Blows sicuramente rappresentano forse questo tipo di passaggio da formazione techno-pop sperimentale vicino a certo post-industrial, certa metal dance, con elementi anche neri dentro la formazione, in particolar modo uno che poi sentiremo anche dopo con un suo progetto da solo. Tentarono proprio questa operazione nei primi anni 80, creandosi appunto quel suono vicino a quella internazionale di cui stavo parlando prima con Cabaret Voltaire, che possiamo trovare anche in Severed Heads, e poi con le progettualità della fine degli anni 80 a rimandare appunto alle prime esperimenti creati dagli stessi 400 Blues, Electron, Moody Boys, appunto forme di techno europea traslate appunto da Detroit e da Chicago, e acid appunto proveniente soprattutto da quelle due città. Ci andiamo a sentire appunto prima con 400 Blues, e quindi sentiamo gli esperimenti dei primi anni 80 di questi favolosi londinesi, e poi andiamo a prendere appunto le progettualità che ci portano, invece ti traghettano evidentemente, alla fine degli anni 80. Thank you. come si possa trasformare un incubo tecnologico legato a questo suono ferroso, sostenibile quasi, dentro appunto un'alienazione decisamente, insomma, grave, come tante techno, anche band proto-techno stavano rilevando e così mettendo in musica proprio quelle forme anti-alienatorie. Tra l'altro in sottofondo abbiamo proprio la metal dance, e con 400 Blows siamo andati proprio a trovare quella forma, se vogliamo anche piuttosto filologica, di creare della dance attraverso il metallo, prima con un pezzo, insomma, che riusciva a rendere quasi astratto una tribalità che si fa ovviamente diversa dentro una metropoli come Londra, come la metropoli degli anni Ottanta, con questa dismissione industriale, quindi questi capannoni, queste immagini anche devastanti che ci sono tuttora nella capitale inglese, dove appunto zone che sembrano abitate veramente dai fantasmi dell'industrializzazione, tra l'altro è nata proprio in quelle zone, e queste sonorità che appunto quasi a volere così fare un excursus storico su quello che è stato un suono che ha attraversato di fatto migliaia di vite, appunto dentro le fabbriche, dentro il lavoro, che alla fine degli anni 70 e soprattutto nei primi anni 80 si stava portando attraverso poi le politiche, insomma, tacceriane, allo smantellamento quasi completo, e quindi alla finanziarizzazione, che ci porta effettivamente, come anche in maniera dolorosa, ai nostri giorni. E questo suono appunto che comunque si trasla e diventa poi quell'attitudine che questa sera stiamo chiamando rudimentale, di suono volutamente grezzo, volutamente allusivo in questa sua essere basico di un altrove, che non si può che trovare se non con un atteggiamento decisamente ferreo, a questo punto potremmo dire, anche in chiave piuttosto ironica, e appunto sempre metal dance. E a proposito di metal dance, con faccende insomma che ci sfiorano in sottofondo, con SP Cape e col pezzo insomma che così tentarono di lanciare come nuovo genere metal dance, poi in realtà a distanza di quasi 30 anni parliamo di metal dance, insomma, come possibilità anche data, nuova coniazione di un genere che non è mai esistito poi in realtà all'epoca, soprattutto con una bella collezione uscita adesso da Trevor Jackson, mente dei Playgroup, che anche lui, come dire, ha dance obliqua, e che si rifà appunto a quei rudimenti, magari più in una chiave black electro, sicuramente insomma deve tanto a SP Cape, come certe forme di elettro appunto decisamente pestata, se vogliamo. 400 Blows, oltre appunto a traslare quelle ritmiche per tanti aspetti insomma vicini all'industrial, poi con la fine degli anni 80 e con la divisione appunto del progetto madre 400 Blows, crearono prime forme di techno come Electron, accennavo prima appunto alla techno traslata europea, in questo caso inglese, e ce l'andiamo a sentire prima appunto come Electron, ex progetto di 400 Blows, Andrew E. Beer, insomma protagonista della storica formazione, poi come Moody Boys, altra derivazione di 400 Blows di Tony Thorpe, che per tanti versi è anche più importante, più vicino forse a quella matrice nera e anche a quella poiché diventerà per un breve periodo l'ambient house di KLF. Moody Boys parteciparono tanto a remix e alla prima progettualità di KLF, se magari qualcuno qualcuno se le ricorda, anch'essa storica formazione che per tanti versi prendeva anch'essa da queste forme di wave dance, industrial dance, metal dance, chiamatela un po' come vi pare, l'importante è che, come dire, si capisca che è basica per un determinato atteggiamento. Ci andiamo a sentire quindi prima Electron, ex 400 Blows di Andrew Ebeer, e poi Moody Blues, anch'essi ex 400 Blows, fine di prima parte 451, e poi ci sentiamo appunto continuando questo viaggio.